Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo il mio blog Guardie o Ladri sull'home page del Sole 24 Ore. E vi ricordo anche che potete scaricare tutte le puntate passate del mio programma sul sito di Radio 24, quindi via podcast. Allora, come voi sapete, non amo molto prendere in considerazione casi particolari, a meno che, ripeto sempre, non rappresentino gli stessi una pluralità di persone coinvolte da quel problema. Quindi, insomma, il problema non deve essere emotivo e soggettivo, ma riguardare molte persone. Abbiamo avuto la segnalazione negli ultimi giorni di una diatriba abbastanza curiosa, una polemica in famiglia. Mi spiego meglio. A Gioia del Colle, siamo quindi in provincia di Bari, all'interno della stessa coalizione amministrativa, siamo nel Popolo delle Libertà, le decisioni vengono prese, ma non sembrano così condivise. Qual è il punto che fa litigare in casa? È un problema sentito in ogni parte d'Italia. Parliamo dei ripetitori di antenne, dunque, che darebbero vita, secondo studi in realtà mai provati scientificamente con dovizia di particolari, il cosiddetto elettrosmog, e quindi metterebbero le antenne a rischio la salute dei cittadini. Accade a Gioia del Colle, ma in realtà, ed ecco il motivo per cui ci occupiamo di Gioia del Colle, in realtà accade in questo momento in decine di comuni italiani. È accaduto e accadrà ancora, perché queste antenne, ripetitori per i telefoni cellulari piuttosto che per altre emanazioni elettromagnetiche, sono sempre foriere di divisioni. Allora, per parlarne, noi abbiamo oggi l'assessore all'ambiente del comune di Gioia del Colle, in provincia di Bari, Federico Antonicelli. Buongiorno Antonicelli. Buongiorno. E il consigliere comunale del PDL, quindi stesso partito, stessa coalizione di Antonicelli, Vito Falcone. Buongiorno anche a lei, Falcone. Buongiorno. Allora, io partirei una volta tanto dall'accusa su segnalazione, appunto, che c'è stata fatta da alcuni cittadini di Gioia del Colle. Io leggo, Falcone, una sua lettera molto graziosa, devo dire simpatica, del 4 dicembre 2009, in cui, a proposito di installazione di antenne, parla di una commedia all'italiana avvenuta in consiglio comunale, dove il piano di zonizzazione elettromagnetica in realtà è stato un flop. Si doveva decidere, non si è deciso nulla. Allora, ci vuole spiegare un po' questa vicenda che sta impegnando la politica e i cittadini di Gioia? Sì, benissimo. Allora, qui dobbiamo chiarire alcuni aspetti, perché poi la lettera è scarna nei contenuti, quindi può a primo acchito creare, può essere fonte di polemica, diciamo così, ma sicuramente quella non era la mia intenzione nei confronti dell'assessore, me ne guarderei bene. Tra l'altro siamo prima di tutto amici, siamo dello stesso partito, quindi le idee politiche sono, certo, non sono differenti, ma sono in sintonia. Il problema delle antenne a Gioia del Colle è un problema che non nasce oggi, ed è, diciamo così, abbastanza complicato spiegarlo, perché con la legge regionale adottata dalla Regione Puglia, che è nata nel 2007, appunto questa legge tra i suoi diktat imponeva ad ogni comune di dotarsi di un piano di zonizzazione elettromagnetica. Dopodiché si poteva intervenire con l'impiantistica, quindi con l'impianto vero e proprio. A Gioia del Colle questo non è successo, e all'epoca non era, diciamo, l'attuale assessore all'ambiente, era consigliere comunale, capogruppo del PDL, quindi non era, diciamo, non è stato lui l'artefice di questa situazione che si è venuta a creare a Gioia, cioè che si è dato mandato ad una ditta fare le installazioni senza che il comune fosse dotato di un PZE, di un piano di zonizzazione elettromagnetico. Cerchiamo di tradurlo in maniera più volgare per i nostri radioascoltatori. Vuol dire, e mi corregga se sbaglio, per carità di Dio, vuol dire che quindi queste antenne potevano essere messe sul territorio di Gioia del Colle senza che in precedenza il comune avesse detto devono essere messe qui, devono essere messe lì, o insomma decidere la corretta collocazione. Sì, perché diciamo che l'iter burocratico e amministrativo giusto doveva essere quello di dotare prima il comune di un piano di zonizzazione elettromagnetica e una volta individuate appunto le zone, le allocazioni adatte, le ditte, quindi la Telecom, la Wind o un concessionario, avrebbero potuto installare lì dove il PZE, e quindi il Consiglio Comunale, organo sovrano e competente in materia, avesse deliberato. Benissimo, io la interrompo un attimo qui, Falcone, perché lei è stato chiarissimo e soprattutto ha raccontato e descritto un principio che ritengo sacrosanto, vale a dire, non è che può arrivare l'impresa di telecomunicazioni XYZ e sulla base dell'autorizzazione a fissare le sue antenne prende il comune e dice dove mi piace mettere, lì, là o dall'altra parte. Così ovviamente non va, è un principio di civiltà, voglio dire, quello che deve essere la collettività a dare il proprio senso alla collocazione di questi ripetitori. Ciò detto e ciò condiviso, caro Falcone, chiedo ad Antonicelli, allora oggi voi come amministrazione, perché siete voi che gestite queste cose, che cosa avete intenzione di fare? E il caso, cari ascoltatori, è molto importante, è veramente esemplificativo, perché questa, come dire, anarchia nel piazzare le antenne in realtà coinvolge moltissimi comuni italiani. Allora Antonicelli, quali saranno i passi che voi adesso adotterete? Effettivamente quello che appena descritto Vito Falcone, mio amico, tra l'altro, e abbiamo, col quale abbiamo condiviso diverse battaglie proprio nel campo ecologico e soprattutto nel rispetto della salute dei nostri concittadini, perché quello che poi alla fine ci muove tutti è il principio di cautela che volge a salvaguardare la salute dei cittadini. Assolutamente. Ecco, allora effettivamente però vorrei dire che già era stato dato dalle precedenti amministrazioni l'indirizzo di dotarsi di un piano di zonizzazione elettromagnetica, perché in assenza di questo, purtroppo, poiché la telefonia è ritenuto un servizio indispensabile pubblico per il cittadino, i gestori delle emittenti di telefonia mobile, certo, possono allocarsi dove meglio ritengono opportuno per la loro copertura. Chiaramente cosa abbiamo fatto noi? Ecco, io ho ereditato questa situazione nel luglio 2008 per andare incontro, ecco, perché poi vorrei anche spezzare la lancia a favore del mio predecessore, nel 2008 per andare incontro all'esigenza di una parte del nostro paese in maniera così repentina abbiamo chiesto alla Telecom di installare un ripetitore in una zona poco conveniente per loro, perché sa benissimo che i gestori telefonici sono delle imprese e non vanno a installare antenne laddove non ci sono abbonati. Certo. Allora, al ristoro di questa installazione e che questa zona periferica per Gioia del Colle, dove si perpetuavano e ancora oggi si perpetuano i furti a danno del rame, dei fili conduttori della telefonia fissa. Certo, sono molto ricercati purtroppo. Purtroppo è così. Allora abbiamo chiesto alla Telecom di intervenire per offrire e garantire la copertura almeno di telefonia mobile affinché loro possano sentirsi sicuri. Una telefonata ai carabinieri, al pronto soccorso. Sì, insomma, i servizi essenziali. Esatto, sono dei servizi essenziali. A ristoro la Telecom ha chiesto di poter allocare poi delle antenne all'interno dei ripetitori, all'interno del centro abitato di Gioia del Colle, e lì è stato concesso. Ecco, ed è stato concesso. Ecco, ma forse è proprio nel centro. Ed è qui, è questo il perno. Esattamente. Ed è questo il perno. Cosa abbiamo fatto noi? Nel frattempo, dopo che ci siamo accorti, dopo che l'amministrazione si è accorta che probabilmente era stata concessa incautamente la gestione, la concessione dei siti delle antenne, però vorrei dire una cosa, che questi siti sono autorizzati sia dall'ARPA e dalla conferenza dei servizi. E quindi voi non potete altro che adeguarvi allora? Esattamente, in mancanza di questo non potevamo altro che adeguarci, però noi abbiamo cercato di porre rimedio. È stata fatta una delibera di giunta comunale che andava a reiterare la vecchia delibera di giunta, quindi in attesa del piano di zonizzazione elettromagnetica. Bene, allora assessore, io purtroppo qui sono costretto ad interromperla perché il tempo è scaduto, quindi ringrazio lei e anche il consigliere Falcone, così come ringrazio in regia Carmelo Lauricella e in studio Elisabetta Fusconi. Abbiamo quindi sentito che a questo punto il comune di Gioia del Colle farà il suo piano di zonizzazione elettromagnetica per sanare questa situazione. Certo è che a questo punto ci vorrà il necessario coinvolgimento anche dei cittadini. Caso esemplare quello di Gioia, ne seguiremo anche degli altri. Io intanto vi saluto e vi do appuntamento ad una nuova puntata augurandovi una buona giornata.